Sicuro. Saranno due fa, saranno due. Quindi se facciamo la pausa sono tre, se non facciamo la pausa saranno due. Ok, siamo registrati. Allora, dicevo, e quindi ipotizzarono, però allora da questo i linguisti dell'Ottocento fecero quello che noi oggi, come dire, identifichiamo chiaramente come un salto logico, cioè senza avere, cioè, come dire, in maniera un po' arbitraria, dedussero da questa parentela tra tutte le lingue di questa grande famiglia chiamata indo-europea. Nel frattempo altri linguisti stavano studiando altre lingue, la famiglia delle lingue semitiche, poi quella delle lingue amerindie, quelle delle lingue parlate dagli indiani d'America, che erano lingue diverse, simili a quelle degli eschimesi, eccetera. Poi c'erano lingue orientali, le varie, questa strana cosa di lingue chiamate uralo-altaiche, che erano parlate in alcune zone dell'Asia, poi il turco, eccetera, eccetera, più gli enigmi linguistici come appunto, ripeto, ungherese, finlandese e basco, che ancora oggi non è stato stabilito bene a quale famiglia appartengano, forse però sono più simili a questa famiglia, infatti hanno fatto una famiglia apposta chiamata ugrofinnica. Ma che non vuol dire un tubo, che in realtà non si sa bene con quali altri, forse è imparentata con queste famiglie uralo-altaiche, insomma, poi si mettono lì, studiano. Ma cioè, il salto logico che fanno è, dice, va bene, siccome c'è una parentela tra tutte queste lingue, allora ci deve essere stata una lingua comune, prima di queste, che noi chiamiamo l'indo-europeo. Ci sono documenti di questo indo-europeo? No. C'ha un nome questa lingua, nel senso che abbiamo documenti? No, perché nessuno ne parla. Però, dicono i linguisti dell'Ottocento, sicuramente tanto. E fanno questo, si mettono a fare questi enormi lavori di linguistica comparata, tentando di ricostruire una lingua di cui non ci sono prove, non ci sono materiali, non c'è alcun corpus. Cioè, per studiare una lingua bisogna avere un corpus, cioè cioè un certo insieme di materiali, o di lingua scritta, o di lingua orale, cioè un gruppo di persone che la parla. Allora, come dire, ti metti lì, vai lì, se hai un registratore, quando sono stati inventati i registratori, registri, se no, diciamo, la senti, stai lì 2 mesi, 3 mesi, 1 anno, 2 anni, eccetera, impari questa lingua, eccetera, e poi la descrivi, dici, questa lingua è fatta così, i suoni sono così, bla bla, eccetera. E poi, cosa che è stata fatta, che gli etnografi poi nel corso, diciamo, nella seconda metà dell'Ottocento e nel Novecento hanno fatto per tutte le lingue del mondo, quando molti di loro hanno cominciato a spaventarsi perché vedevano che le lingue morivano come le mosche, che diciamo, l'espansione dell'uomo bianco nel mondo, l'occupazione diciamo, della fisica e culturale diciamo, dell'Occidente, l'espansione dell'Occidente nel mondo, faceva morire le lingue parlate dalle cose. C'è stata un'ecatombe di lingue, per esempio già nel corso dell'Ottocento, quando i linguisti americani cominciano a studiare le lingue amerindie, cioè le lingue dei americani, già in quel periodo ne sono morte a centinaia. Cioè non ci sono più, si registra l'esistenza di lingue, perché si sa che altri ne parlano, eccetera, di cui però non c'è più nessuna comunità che le parla, quindi lingue estinte, quindi le lingue muoiono, insomma, se si muoiono, nascono e muoiono. Allora, torniamo a noi e alla questione dell'indoeuropeo e alla questione degli universali linguistici. Allora, quindi si ipotizza l'esistenza di una lingua, ripeto, misteriosa, incognita, senza materiali linguistici, chiamata indo-europeo, e molti linguisti dell'Ottocento, gli indo-europeisti, comunque, che è stato come dire, un episodio di studi enormi, cioè una quantità di studi gigantesca fatta su, totalmente inutile, no, perché evidentemente è servita per far capire meglio la parentela o le parentele tra molte lingue esistenti, quindi tra tutte le lingue, quindi è servito per studiare meglio le caratteristiche della famiglia linguistica indo-europea, basata però su di un presupposto non scientifico, o comunque non verificabile, o comunque bizzarro, o comunque fuori dal mondo, o comunque totalmente inutile, cioè quello di ricostruire una lingua che non sappiamo se sia mai esistita, e possiamo dire oggi addirittura che probabilmente non è mai esistita, insomma. a meno che noi non siamo dei sostenitori di una teoria della lingua unica, nel qual caso evidentemente possiamo pensare che se c'è stata una lingua unica, le lingue si sono divise a poco sempre con lo stesso modello. Cioè prima due, poi tre, poi cinque, poi sei, poi sette, poi dieci lingue, ognuna di queste a sua volta si divide in varie cose. Se invece pensiamo che il fenomeno della nascita e dello sviluppo delle lingue, dei linguaggi sia più complicato di così, non penseremo, cioè non ci scandalizzeremo nel pensare che gruppi umani diversi, posti in situazioni socio-ambientali diverse, abbiano ognuno di essi sviluppato la propria capacità di parlare con degli strumenti totalmente differenti gli uni dagli altri, senza parentele gli uni con gli altri, o con delle affinità ma derivanti unicamente dal fatto che c'era magari una storia, come dire, precedente, eccetera, ma che si tratti di lingue totalmente nuove, totalmente diverse, e comunque senza che ci debba essere per forza questo modello costrittivo, diciamo, ad albero, per cui tutte le lingue devono diramare e devono provenire da qualche antenato comune. L'antenato comune spesso non c'è, o comunque, se anche ci fosse, sarebbe, come il nomino di Kant, totalmente inconoscibile. Cioè, forse c'era, ma tanto non potevo mai arrivare. Era impossibile arrivare a scrivere e a stabilire una caratteristica dell'indoeuropeo, cioè della dell'indoeuropea. E ciononostante vennero pubblicate, soprattutto dai linguisti tedeschi, nell'ultima parte dell'Ottocento, addirittura delle grammatiche dell'indoeuropeo, cioè costruite delle grammatiche dell'indoeuropeo, in cui si pigliavano alcune regole delle lingue indoeuropee esistenti e si combinavano. Cioè, allora potrebbe essere che l'indoeuropeo si cercò di ricostruire addirittura un lessico indoeuropeo, cioè un piccolo vocabolario di parole indoeuropee. Ma le parole indoeuropee in realtà noi non sappiamo che ci sono, perché se non conosciamo la lingua, come facciamo a sapere che parole erano? Allora possiamo al massimo dire c'è una radice indoeuropea. Per esempio sappiamo che la parola latina arte deriva da una radice in la parola latina, perché ars, che poi si tramanda in molte lingue, in tutte le lingue neolatine e anche in alcune germaniche, per esempio l'inglese, sempre art, mentre in altre lingue non è così, perché kunst, eccetera, eccetera, c'è altre cose, però deriva da una radice indo-europea, la radice ar, che ritroviamo in molte altre parole del latino e di altre lingue, con un però significato diverso da quello, per esempio, di arte, perché probabilmente la radice è la stessa di arare, aratro, cioè fare delle operazioni sulla terra. Insomma, allora, si può dire che c'è una radice indoeuropea, ma possiamo dire che sicuramente nell'indo-europeo, che non sappiamo se è mai esistito, esisteva una parola ar, forse no. Comunque non possiamo concludere dall'esistenza della parentela di alcune parole delle lingue europee con una possibile radice indoeuropea che ci fosse una vera e propria parola. Quindi, ripeto, si trattò non di un episodio della storia della linguistica totalmente inutile, ma certamente era basato su, diciamo, ipotesi fantasiose e arbitrarie, e quindi inverificabili, e quindi diciamo di difficile classificazione scientifica. Quando arrivò De Saussure negli ultimissimi anni dell'Ottocento, nei primissimi anni del Novecento, ad insegnare le cose che insegnava nei suoi corsi a Ginevra e che vennero raccolte dai suoi allievi, perché lui non scrisse mai un libro chiamato Corso di Linguistica Generale, Corso di Linguistica Generale, ma furono due allievi suoi che raccolsero gli appunti di vari anni, come potresti fare tu, confrontando gli appunti di questo corso con quelli di qualche anno prima, facciamo un libro di Caronia, Caronia muore, facciamo un libro di Caronia postumo. Sarebbe una roba simile, quindi hanno fatto un lavoro molto, poi lui per la lezione molto più ordinato delle mie, eccetera, quindi è stato possibile ricostruire questo. Comunque, insomma, che cosa fa? Diciamo, qual è l'ipotesi di Saussure? Abbandona questa idea come dire, questa ipotesi, come dire, universalistica, cioè esiste. No, certo, nonostante che lui poi per tutta la sua vita, lui era, diciamo, la sua formazione era quella di un linguista comparativista che studiava l'indoeuropeo come tutti gli altri. Infatti nei primi anni insegnava quel genere di cose. Poi a un certo punto si mette, cambia, e senza scrivere mai nessun libro su questo, che poi le poche cose che lui ha pubblicato in vita erano opere un po' strane, ma ortodosse, cioè opere di linguistica indoeuropea ortodossa, però prevalentemente sugli anagrammi, perché aveva una mania, aveva fatto tre o quattro libri diversi sulle classificazioni di anagrammi in, o di modi di dire, sorvegliavolo in diverse lingue indoeuropee, eccetera, eccetera. Però poi nei suoi corsi mi diceva c'era questa cosa. E che cos'era questa cosa? Non era affatto, attenzione, un rifiuto o un accantonamento dell'ipotesi dell'indo-europeo in favore di una quella che sarebbe poi chiamata la relatività linguistica, ma addirittura rilanciò Saussure l'ipotesi universalista su un livello ancora più alto di quello a cui l'avevano, diciamo, tenuta come dire, i linguisti ufficiali, insomma, cioè quelli degli studi sull'indo-europeo. E cioè disse, ipotizzò, come dire, Saussure, c'è una struttura comune in tutte le lingue che è una struttura logica di fondo, no? Chiaramente Saussure era uno che pensava che non ci fosse pensiero senza, come dire, linguaggio. Il pensiero e il linguaggio per lui erano così inestricabilmente legati che lui disse, diciamo, nelle lingue del mondo, di tutte le lingue, come dire, possibili, c'è un'ossatura, no? Che è chiaramente comune e che rappresenta la sua struttura, cioè c'è una struttura della lingua che è universale. Da qui poi i seguaci, quelli che studiarono Saussure nel corso degli anni immediatamente diciamo seguenti, perché il corso di linguistica mi sembra esce nel 1911 o 15, adesso non ricordo bene, quando Saussure era già morto, a cura di quei suoi allievi, e immediatamente già nei primi anni 20 ci sono dei circoli, dei gruppi di linguisti in Europa che fanno proprio le ipotesi di Saussure, che tentano di sviluppare. Il più famoso di questi circoli è quello di Praga, il circolo linguistico di Praga, che è attivo già negli anni 20, i cui esponenti principali sono non due praghesi ma due russi emigrati, tutti e due, figli di, diciamo, famiglie emigrate con la rivoluzione russa del 17, che sono Roman Jakobson, J-A-K-O-B-S-O-N, e Nikolai Trubetskoy. Trubetskoy addirittura era figlio di una sua nobile russa. Il nome lo scriviamo così. La C prima di una K delle Z in russo, o è uno dei modi di traslitterare il nome delle Trubetskoy. Diciamo, la lettura di questo circolo, di questi linguisti praghesi di adozione, non diciamo di nascita, ma si chiama Circolo di Praga, la loro, che più o meno sono gli stessi anni in cui nasceva il circolo di Vienna, che invece era un circolo logico filosofico, in cui però c'è un'altra persona che insomma, ci lavora sempre negli anni 20, che è importante anch'essa per la, cioè, molto importante per la teoria del linguaggio, che è invece un austriaco chiamato Ludwig Wittgenstein, il quale poi avrà una storia, però uno sviluppo tutto, come dire, particolare. Per il momento di Wittgenstein non parliamo, perché Wittgenstein all'inizio, cioè nella prima fase del suo, come dire, pensiero, è anch'egli un universalista logico, diciamo linguistico, però poi nella seconda parte della sua vita probabilmente cambia idea quando si sposta in Inghilterra, e dove, paese dove poi finisce la sua vita, insomma, all'inizio degli anni 40, non ricordo quando è morto. Allora, diciamo, per stare a questi, qual è quindi l'ipotesi universalista a cui, diciamo, messa in enunciata o presupposta da De Saussure e sviluppata dai suoi studiosi, da suoi seguaci successivamente, è il Siglo di Praga, l'idea che la lingua, in quanto il linguaggio, i linguaggi naturali, in quanto sono la traduzione, l'espressione più vicina alla pratica di una struttura mentale, dell'attività di pensiero, appunto, dell'uomo, siccome sono una parte, siccome il linguaggio è una componente fondamentale di questa struttura di pensiero, diciamo, dell'uomo, dalla universalità delle strutture di pensiero degli esseri umani supposta, se ne deduce quasi automaticamente una universalità del linguaggio, cioè delle strutture linguistiche. Ecco perché questa linguistica viene poi chiamata linguistica strutturale, e la linguistica strutturale è stata un episodio importante nella storia non solo della linguistica, ma della cultura dell'Europa del Novecento, perché qualche decennio dopo, cioè nel dopoguerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, darà origine a una corrente più ampia chiamata strutturalismo, ma la quale si baserà su cosa? Su cosa si basò lo strutturalismo? Si basò esattamente sul tentativo di applicare i risultati della linguistica strutturale, trasportarli, tradurli dalla linguistica a una serie di altri campi del sapere. La storia, la sociologia, qualsiasi cosa. Come dire, il risultato più, insomma, risultato, comunque l'episodio più rilevante di questo strutturalismo è quello cioè è la traduzione in termini antropologici, cioè nell'antropologia, delle ipotesi di, diciamo, di Saussure, ad opera soprattutto di un signore francese morto da poco, che si chiamava Claude Lévi-Strauss. Levi con accento grave sulla E, Strauss, trattino, Strauss, Lévi-Strauss. Diciamo, in realtà Lévi-Strauss è diciamo, l'antropologia strutturale di Lévi-Strauss è l'unico vero altro reale risultato discutibile poi finché si vuole, ma insomma, comunque diciamo, non ci sono altri campi del sapere in cui questa traduzione, questo trasferimento con linguistica sia riuscito altrettanto bene come a Lévi-Strauss, creando probabilmente un mostro, perché tale è l'antropologia strutturale di Lévi-Strauss nella sua scrittura, cose molto belle, interessanti, eccetera, ma probabilmente l'opera strutturalista, l'opera a cui egli ha affidato principalmente la fortuna della sua ipotesi, cioè le strutture elementari della parentela, diciamo, come dire, siccome è quella più formalizzata, eccetera, eccetera, anche quella più indigesta, quella più, diciamo, noiosa, quella probabilmente meno interessante, perché poi nel resto della sua opera è vero che dietro c'è un'ipotesi strutturalista, per esempio nella serie Mythologique, dei suoi ultimi libri che sono della serie Mythologique, il Cru del Cotto, il Cru del Cotto, Dal miele alle ceneri, L'origine delle buone maniere a tavola e il quarto. Insomma, sono quattro libri enormi, grossi, complicati, in cui lui ha cercato di estendere questa idea che aveva cioè sul fatto che ci fossero delle strutture universali dietro a ogni modo di pensare, eccetera, che lui aveva visto, diciamo, in che cosa la vede, evidentemente diciamo, lo strumento di lavoro principale dell'antropologo sono le narrazioni orali, delle culture orali che gli studia, quindi praticamente i miti. I miti dei vari popoli. L'antropologia nasce da una sorta di lavoro di collezione erudita di miti di tutto il mondo, fatto da un inglese che non si era mai mosso dall'Inghilterra, ma che aveva catalogato le cose, che si era Sir James Fraser e l'opera Mastodon, che si chiama Il ramo d'oro. Sono 12 volumi nella sua versione originale, poi in realtà ne è circolata una versione più, diciamo, ristretta, in cui c'era una sorta di raccolta di miti, ma abbastanza eterogenea, di tutto il mondo. In realtà anche c'era un'ipotesi anche dietro l'opera di Fraser, ma Fraser non era uno strutturalista, viene molti anni prima, viene lui, questo qua lo fa alla fine dell'Ottocento, i primi del Novecento. Poi neanche i fondatori dell'antropologia erano strutturalisti, né Marcel Mauss, un altro che non si mosse mai da Parigi, né Malinowski, che invece andò nelle isole, come cazzo si chiama, non ricordo mai, insomma, nelle isole della Polinesia, a studiare poi tutti i loro allievi, insomma, e poi fino alla generazione degli anni 30, degli anni 30-40, che erano Margaret Mead, Ivan Spiccia, cioè gli antropologi classici e poi quelli dopo. Quindi, diciamo, nessuno di questi era strutturalista. A questa scuola antropologica classica, che è, diciamo, piuttosto semmai di matrice storicistica piuttosto che non strutturalista, Lévi-Strauss, questo giovane e ambizioso francese che ha fatto soltanto un breve periodo, diciamo, di lavoro sul campo, studiando alcune culture amazzoniche, tra cui principalmente i Bororo, i Nhambiquara, alcune piccole tribù dell'interno del Brasile, però da queste poi, tornato in Europa, trasse questa sua grande ipotesi che ci fosse una struttura dietro a tutti questi miti e che tutti questi miti fossero interpretabili, lui disse in una prima fase, come modi di descrivere il modo di sposarsi delle singole popolazioni, quindi le regole che stavano dietro al matrimonio. E quindi scrisse quest'opera monumentale che si chiama Le strutture elementari della parentela, perché si mise lì, studiò i modi apparentemente diversissimi e lontanissimi con i quali la campante, la stragrande maggioranza, per non dire la totalità, delle culture orali stabilisce le regole in base alle quali diciamo, ci si può sposare in quella concultura. Quindi, per esempio, se tu ti puoi sposare all'interno della tua stessa tribù, devi andare a prendere la moglie fuori, nel caso in cui lo fai all'interno, quali devono essere o non devono essere i rapporti. E ci sono a volte regole complicatissime in questa società, cioè come dire, più la società è, virgolette, primitiva, cioè noi diciamo in termini, come dire, moderni, meno collante sociale ha sul piano tecnico e produttivo, tanto maggiore deve averla sul piano, come dire, simbolico. E il modo in cui quasi tutte queste culture trovano questo collante sociale è il modo di sposarsi. Soltanto che quando Lévi-Strauss pubblica quest'opera nel 1948, Le strutture elementari della parentela, come diciamo. Fino a prima che Lévi-Strauss scriva questo libro, tutti questi sistemi di parentela sembravano eterogenei, diversissimi gli uni dagli altri. Con un lavoro gigantesco, mi permetto di dire forse anche un po' inutile, però insomma ammirevole da questo punto di vista, Lévi-Strauss dimostra o tenta di dimostrare invece che dietro a questa fenomenologia così variegata, così varia di regole di parentela diverse, in realtà dietro c'è una specie di struttura universale che lui tenta di, diciamo, descrivere. Dico che è un lavoro titanico perché, per una ragione molto semplice, forse non ci voleva la testa di Lévi-Strauss per capirlo, se devi, come dire, da un certo punto di vista, insomma, il modello di tutti questi lavori qua sono le scienze classiche, no? Dal guazzabuglio della fisica aristotelica arrivano Galileo e, come dire, Newton e dicono: ah, è tutto semplicissimo. Dietro a tutti questi fenomeni strani, in realtà c'è una cosa unica, si chiama l'attrazione universale, gravitazione universale. Due masse si attirano, una semplicissima legge, due masse si attirano reciprocamente in modo direttamente proporzionale alle loro masse e inversamente proporzionale al quadrato delle loro distanze. Punto. Con una frasetta tu hai, cioè con una cosa molto semplice, tu hai creato questo è strutturalismo pure lui, perché anche lì c'è una struttura dietro alla cosa figlia del mondo, poi scopri che non è così semplice, ma insomma, però per un certo periodo la cosa funzionò, dici cazzo, va benissimo, però obiettivamente, effettivamente c'era ben poco da, cioè era molto semplice, cioè, poi c'era una complessità di struttura matematica intorno per andare a descrivere da questa regolina, da questo principio fondamentale. Nel caso di Lévi-Strauss non c'è questa cosa, Lévi-Strauss non riesce a enunciare nessun principio così semplice e così immediato, che colpisce così, che è facilmente spiegabile come la legge di gravitazione universale di Newton. Deve costruire un modello, costruisce un modello che obiettivamente è complicatissimo, perché deve rendere conto e deve unificare, tentare di unificare sistemi di parentela disparati, diversissimi, in cui in uno è assolutamente vietato ad un maschio sposare femmine collegate per parte di padre con lui, tipo cugine. In altre culture è obbligatorio, è addirittura obbligato invece a sposare la sua prima cugina patrilineare. Cioè, come cazzo si fa a dire? Ma insomma, che cosa c'è di comune dietro queste cose? Allora, si può fare, certo, però bisogna costruire un armamentario terribile. E Lévi-Strauss ci riesce, e quindi ripeto, tanto di cappello, perché però a prezzo della, come dire, semplicità. Il modello strutturale che lui propone per spiegare tutta questa diversità di cose è, come dire, un modello 10 volte più complicato dei sistemi di parentela singoli che va a, come dire, studiare. Facciamo un salto e arriviamo alla fine degli anni 50 in America, e vediamo che cosa stava succedendo nella, come dire, linguistica. Allora, mentre nell'antropologia c'era stato questo tentativo, come si era sviluppata la cosiddetta linguistica strutturale? Si era sviluppata paradossalmente in maniera meno ambiziosa del tentativo di Lévi-Strauss, molto meno ambiziosa. Anche Saussure, quando tu vai a leggere il suo corso, Saussure non descrive alcuna struttura reale, universale del linguaggio. Descrive una cosa molto più semplice, utile magari, ma semplificatissima, una struttura logica sottostante, dice il linguaggio è una struttura, un insieme di segni collegati tra loro, basati su questa idea, ogni segno è un significante che traduce o che è un certo significato, e quindi dice studiamo sintassi, semantica, eccetera, ma non ha mai dato, né Saussure né i suoi primi allievi successivi, non ha mai dato una reale descrizione universale di questa sintassi. Ma allora, qual è la sintassi? C'ha dei principi, ci sono delle regole universali, sembrerebbe di sì da quello di Saussure, ma non ne parla, non le come dire descrive. Paradossalmente l'unico che neanche Jacobson fa un lavoro del genere. Anche Jacobson dice sì, ci sono, Jacobson sviluppa una delle intuizioni di Saussure, cioè la differenza tra il sintagma e il paradigma, cioè la differenza tra una struttura linguistica come viene prodotta nelle singole frasi, quindi il sintagma, la connessione di una parola con un'altra, di un insieme di suoni giganti con un altro, e invece il paradigma, cioè l'insieme di tutti i possibili suoni simili, o l'insieme di tutte le possibili parole con un significato simile, o l'insieme di tutte le voci verbali relative a un certo verbo, il paradigma, come noi diciamo, come abbiamo studiato nelle scuole secondarie, il paradigma verbale, insomma, quello vuol dire. Allora dice, c'è il sintagma e il paradigma. L'esistenza concreta della lingua è un'esistenza sintagmatica, noi conosciamo solo sintagmi, cioè solo sequenze di parole che sono realmente lì, che stanno scritte su foglio di carta o che sono pronunciate nell'aria come quelle che sto dicendo io adesso, ma dietro a ogni sintagma, dice Saussure, c'è un paradigma, cioè c'è un insieme di possibilità da cui il parlante estrae Adesso io ho detto da cui il singolo parlante estrae e uso un verbo estrarre. La mia mente inconsciamente ha passato in rassegna, io non ne sono neanche accorto, ma tutte le possibili parole che potremmo significare qualcosa che togliere, mettere, infilare, strappare, eccetera, e ho detto no, non le uso queste, metto estrarre. Quindi la mia scelta sintagmatica del verbo estrarre è il risultato di una scelta che ho fatto dentro un paradigma, cioè dentro una lista, questa è la cosa. Allora Jacobson sviluppa questa idea di, diciamo, de Saussure, e la sviluppa secondo due figure retoriche importanti, ma che prima di lui non erano state associate così chiaramente, che sono la metafora e la metonimia. E praticamente lui indica nella metafora l'asse paradigmatico, cioè la metafora è una figura retorica che avvicina due parole che paradigmaticamente sono, diciamo, lontane, mentre la metonimia, quindi la, come dire, metafora è una sorta di simbolo o di realizzazione dell'asse paradigmatico, mentre la metonimia invece rappresenta un asse sintagmatico, cioè un asse di vicinanza. La metonimia è, per esempio, quando io, per indicare un oggetto complesso, prendo una sua parte piccola. Invece di dire la nave, dico le vele. Le vele salparono. Oppure dico il legno salpò. Dire il legno invece di dire la nave, adesso è un modo di dire vecchi, ma per dire si trovano nei testi, è un tipo di azione metonimica, non è metaforica, mentre dire Achille era coraggioso come un leone è una cosa, come dire, metaforica. Ma anche Trubesco, in questo è ben lontano dall'essere, come dire, una realizzazione soddisfacente di una ipotesi strutturalista. Non c'è una vera struttura, vabbè, c'è un principio generale, c'è la metafora, c'è la metonimia, e spiega. Insomma, diciamo, Jacobson, entrambi questi assi devono essere presenti nel, con il nuovo linguistico, quindi ogni produzione linguistica è una combinazione di asse metaforico e asse metonimico, o asse sintagmatico e asse paradigmatico, o asse della vicinanza, asse della lontananza, insomma, quello che sia. Però non è una cosa. E quindi poi il lavoro concreto della linguistica cosiddetta strutturale, come è stata chiamata anche però negli anni seguenti 30, 40, 50, eccetera, era un tipo di linguistica terribilmente descrittiva, cioè si cercava di fare un lavoro che fu anche utile, piuttosto di decostruzione della grammatica che non di costruzione, però su una singola lingua. Allora si prendevano le produzioni verbali, venivano considerate delle stringhe, delle sequenze di suoni, teniamo presente che in quegli anni stava anche nascendo la nuova scienza dell'informatica, quindi l'idea, il modo in cui poi certe cose sarebbero state processate dai calcolatori, anche prima che ci fossero i calcolatori veri e propri, però questo modo di pensare, cioè di, come dire, suddividere un po' le cose. Allora prendiamo queste stringhe e le segmentiamo, vediamo come si segmentano. Quindi è stata la cosiddetta linguistica strutturale, in pratica è stata una scienza molto empirica, molto, cioè con pochi principi generali, quelli detti da appunto Saussure, Jacobson e Trubetti. L'unico che prova a descrivere davvero in un campo specifico di linguistica o qualcosa che si vuole chiamare struttura, invece Trubetskoy. Trubetskoy infatti è quello che fonda quella parte della linguistica che oggi si chiama fonologia. E infatti la sua opera principale si chiama Principi di fonologia. Che cos'è la fonologia secondo Trubetskoy? È la scienza, diciamo, è il livello strutturale sottostante alla fonetica. La fonetica non è altro che la descrizione di un singolo sistema di suoni che però varia da lingua a lingua, c'è una fonetica dell'italiano, una fonetica dell'inglese, una fonetica del francese, una fonetica del cinese, eccetera, eccetera. C'è un nucleo comune a tutte queste diverse fonetiche, perché alcuni suoni, molti suoni consonantici, alcuni suoni vocali, si sono simili, sono uguali in tutte le lingue. Poi ogni lingua ha i suoi, no? Inglesi, tedeschi e piemontesi hanno il suono I, per esempio, che però non c'è nella lingua italiana in quanto tale. C'è però, i piemontesi lo dicono, ma semplicemente perché loro parlano una versione modificata del francese che chiamano piemontese. Scherzo, insomma, è sempre italiano, però. Allora, per esempio, c'è il suono I, che è un suono che hanno sia i francesi che i tedeschi, ma che non hanno gli italiani, e curiosamente non c'hanno neanche gli inglesi, i quali hanno un casino di suoni vocalici in più dei nostri, hanno forse 15 vocali, diciamo, gli inglesi rispetto alle nostre, quante ne abbiamo noi? Vediamo. Erano 7. Brava, non 5, 7. 7 sono le vocali in italiano. E altre, insomma, allora questa è la fonetica. Allora Trubesco, che cosa fa? Dice, ma in realtà la fonetica, e analizza la fonetica dal punto di vista di un insieme, cioè come dire, va a vedere quali sono le caratteristiche anche fisiche proprio, no? Che stanno dietro ai come dire, suoni. Come fa per descrivere un suono? E scopre, comunque teorizza che in realtà questo sistema di tratti distintivi, cioè di caratteristiche, di proprietà dei suoni che messi insieme descrivono un suono, è tutto strutturato, guarda un po', non a caso è un sussuriano, è strutturato secondo un sistema di opposizioni, di alternative. C'è un'opposizione alto-basso dal punto di vista del suono, c'è una opposizione acuto grave, c'è un'opposizione aspro dolce e così via. L'ambizione di Trubesco nei principi di fonologia è quella di dare un sistema, quindi non di descrivere i singoli suoni, dice, per quello ci sono già le grammatiche delle singole lingue. Mi vado a prendere una fonetica dell'inglese, mi studio bene i suoni inglesi, sono questi, eccetera, me li imparo, così quali sono, posso anche descriverli in maniera scientifica, ma sono quelli dell'inglese. Lui dice, no, per ogni lingua in generale, ecco l'universalismo, è un'ipotesi universalista, ci sono un insieme di tratti caratteristici, di proprietà caratteristiche, declinate secondo un insieme di coppie oppositive, di opposizioni, che possono che ci mettono in grado di descrivere ogni singolo suono. Allora, per esempio, il suono A, poi c'è aperto-chiuso, mi sono dimenticato aperto-chiuso, cazzo, adesso non le so tutte, non te le se anche se sapessi, non te le direi tutte. Comunque, insomma, mi pare che lui ne ha più di 10 di queste... Di queste opposizioni, insomma, ci mettiamo così, il suono A in italiano sarà un suono che nel aperto chiuso sta dalla parte dell'aperto, nella cosa aspra dolce sta dalla parte, non so, oppure dice in questo caso, per esempio, aspro dolce nelle vocali non è quasi mai pertinente, quindi non lo uso perché non ci sono vocali aspre e dolci, mentre ci sono in molte consonanti, per esempio nelle sibilanti S, S o Z, S o Z e così via. Però appunto caso, allora, diciamo, la A viene descritta da questo insieme di cose e lui riesce a fare una teoria, diciamo discutibile pure questa, ma diciamo prima del grande nome che adesso andiamo a dire, più di Chomsky, insomma, prima di Chomsky l'unico che sviluppa una vera ipotesi universalista sul linguaggio è Trubescoli, ma soltanto nel campo della fonetica, diciamo, fondando o pretendendo di fondare quella che lui chiama fonologia. Ed ecco invece che alla fine degli anni 50 arriva in scena questo giovanotto figlio di emigrati russi ma nato, insomma, cresciuto, quindi non so se è nato negli Stati Uniti, forse sì, ma comunque insomma dipende, comunque è cresciuto negli Stati Uniti, che credo già fin da allora è anarchico, eccetera, eccetera, che si chiama Chomsky, Noam Chomsky, che è il grande protagonista della linguistica autenticamente strutturale, solo che paradosso, se tu leggi le prime opere di Chomsky, quelle giovanili, trovi che sono una serie di insulti contro la linguistica strutturale. Ma perché? Perché ho cercato di spiegartelo prima, perché lui ce l'ha con la linguistica strutturale come si era sviluppata ai suoi tempi, come la vede lui negli Stati Uniti, quindi nulla a che fare con un lavoro come quello di Little Trubetskoy, che invece lui diciamo valorizza, ma contro quella che si chiamava linguistica strutturale dell'epoca e che era questa sorta di analisi empirica delle stringhe, diciamo, linguistiche e la loro sezionatura, la loro divisione in parti non proprio arbitrarie ma più o meno. Chomsky, adesso non lo faccio lunga perché sarebbe insomma ci metteremo tutto un anno per studiare le strutture linguistiche di Chomsky, ma insomma l'idea forte che sta dietro alla teoria di Chomsky è quella con cui lui rivoluziona totalmente la linguistica del suo tempo, è quella invece di prendere realmente sul serio l'ipotesi strutturalista, nonostante che lui ce l'abbia con gli strutturalisti, ma perché ho cercato di spiegarti perché. E infatti lui fa un passo un po' più indietro e lui se deve andarsi a prendere un riferimento storico, addirittura prende Cartesio e lui infatti sostiene di voler fondare una linguistica cartesiana. Cosa vuol dire Cartesio? Non tanto di Cartesio, anche se ovviamente il riferimento a Cartesio la dice lunga sulla sua fame di universalismo e di strutture onnicomprensive, eccetera, eccetera, ma il fatto, quando lui parla di linguistica cartesiana, si riferisce in realtà invece prevalentemente al lavoro linguistico e logico del gruppo dei gesuiti che si raccoglievano intorno all'abbazia di Port Royal, più o meno all'epoca di Cartesio. Port Royal, il cui esponente principale si chiamava Arnaud, ma che produssero una serie di opere collettive, cioè scritte da questo gruppo di persone, le cui opere più o meno sono la grammaire, la grammatica, e la logique, la logica, chiamate grammaire e logique di Port Royal, cioè opere in cui c'è, secondo Chomsky, enunciata già quella che lui, come dire, la sua ipotesi reale, che si può, diciamo, sinteticamente descrivere così. Esiste una struttura universale del linguaggio, come evidentemente esiste una struttura universale del pensiero, se no non potrebbe esistere una struttura universale del linguaggio, e questa scrittura è, struttura è definibile algoritmicamente, cioè è definibile come un algoritmo o una serie di algoritmi. Detto in altri termini ancora, è definibile come un insieme di regole che costituiscono una grammatica. Quindi la frase che riassume l'ipotesi linguistica di Chomsky è: esiste una universal grammar, una grammatica universale, e il compito del col linguista è quello di trovarla, è quello di descriverne le singole regole e dire A, B, C, D e F, saranno tante o poche che sia, ma esiste una grammatica universale. Questa è l'ipotesi più forte, nonostante quello che dice Chomsky contro la cosiddetta linguistica strutturale, è invece la ripresa più esplicita e più forte sia del lavoro di De Saussure, sia del lavoro di Lévi-Strauss in antropologia. Lui è uno serissimo, quindi come dire figurati. Corollario, cioè conseguenza quasi immediata di questa ipotesi di Chomsky: questa grammatica universale è descrivibile con una struttura matematica. se è un algoritmo sarà matematizzabile. E infatti le opere di Chomsky sono piene di, le opere di Chomsky della maturità, quindi non il prima. La prima opera in cui lui esprime nel modo più chiaro queste tesi si chiama Syntactic Structures, strutture della sintassi, è la traduzione italiana, esce nel 1957. Però già a partire nel corso degli anni 60, fino ai primi anni 70, più che in singoli libri, in una serie di saggi pubblicati su varie riviste, Chomsky enuncia questa ipotesi generale della grammatica universale e comincia, pensa lui, concretamente a lavorarci sopra, cioè a cercare di dare queste, diciamo, le vere leggi di questa grammatica universale. La sua ispirazione, e quindi ha fatto una serie di articoli in cui scrive teorema, dimostrazione, corollario, eccetera, eccetera. In realtà di matematico nella Chomsky non c'è un cazzo, non c'è nulla. Parlo per esperienza personale. Io, dovendomi laureare per una serie di questioni familiari, nel 1971 decisi di chiedere una tesi di logica al mio professore di logica, nella illusione, meglio nella errata convinzione, che fosse più semplice rispetto a campi della matematica tradizionale in cui avevo già una tesi, ma non avevo il tempo di farla perché facevo altre cose in quegli anni lì, insomma. Cose molto più pratiche e anche più divertenti per me, insomma, tipo quella di fare agitazione politica presso la classe operaia italiana. E quindi, insomma, dici, e quindi andai da questo professore e lui mi disse, sì, guardi, c'è questa cosa di Chomsky. Io all'epoca non sapevo che fosse Chomsky, cioè spero vagamente, insomma, non avevo la minima idea, e non avevo mai fatto linguistica, peraltro, quindi. Mi disse, guardi, c'è questa cosa qua, allora vede, Chomsky ha fatto così, lui mi disse così, ed era vero, insomma. Lui parla tanto, dice matematico, in realtà però non è un matematico, la matematica non la sa, e infatti, come dire, ha preso una sorta di guscio vuoto, ci ha messo i nomi, ci ha messo le etichette della matematica, ma in realtà dice, lei dovrebbe fare un lavoro, guardi, non tante pagine, mi dà 30-40, mi dà un saggio di Chomsky, dice, sono 30-40, cioè mi dice, si compri ovviamente. Quindi cominciai a comprare tutto quello che c'era di Chomsky all'epoca, eccetera, eccetera, mi misi a studiare in un pazzo, perché io cioè, dovevo fare esattamente proprio il lavoro di traduzione matematica, cioè far diventare matematica vera quella che era con matematica soltanto nella mente di Chomsky. Ma questo è un caso, cioè, questo però non è, diciamo, rilevante, perché l'ispirazione matematica c'era nel caso di Chomsky. Matematica, algoritmica e informatica. E questo si vede nella, diciamo, teoria. Uno degli assunti diciamo, della linguistica di Chomsky, qual è? Dove sta questa grammatica generale che lui dice? Dove sta? Sta nella struttura, come dire, visibile della lingua? No, dice, nella loro apparenza fenomenica, nella loro fenomenicità, le lingue sono tutte molto diverse tra loro e hanno quindi grammatiche totalmente diverse tra loro. Ma questa, dice Chomsky, non è la vera struttura della lingua, questa è la surface structure, è la struttura superficiale della lingua. In realtà, dice Chomsky, dietro alla surface structure c'è quella che lui chiama la deep structure. C'è una struttura profonda della lingua, ed è nella struttura profonda che si vede la universal grammar, cioè la grammatica universale. È nella struttura profonda, nel livello profondo che si devono trovare le categorie, quindi le regole, e quindi i teoremi, eccetera, di questa grammatica. E lui dice, questa struttura profonda comincia già alla fine degli anni 60 a dare un'idea di come è fatta questa struttura profonda. E questa struttura profonda, ecco perché ti dico, non è altro che una struttura ad albero, come le strutture degli informatici, uguale, identica, uguale, come i diagrammi, diciamo, di flusso. Dice lui, giustamente, come questo non non è l'unica lingua, dice la vera unità linguistica di una lingua non è la parola in quanto tale, ma ovviamente è la parola non significa nulla, significa la parola si riferisce semmai ad un oggetto o ad un concetto, ma non è che significa, la parola sedia non vuol dire nulla. Si riferisce ad un oggetto che chiamo così, la parola bontà non vuol dire nulla, si riferisce a un concetto che chiamo. Ma dire gli uomini sono buoni o la bontà non è cosa di questo mondo o questa sedia fa schifo, queste sono le unità che vogliono dire qualcosa, quindi le frasi. Quindi dice c'è qualche cosa, c'è una frase F. Questa frase F dice ciò, si è sempre costituita di due componenti, diciamo, diversi. C'è un qualcosa che si chiama, come dice NS, vabbè, il nominal syntagus, il sintagma nominale, e qualcosa che si chiama VS, SU, verbal syntagus, il sintagma verbale. Poi questo sintagma verbale può essere costituito a sua volta da un qualcosa chiamato copula, diciamo il verbo essere, e un altro SN, cioè un altro sintagma nominale, e poi ognuno di questi può, a volte ce n'è anche tre, e tu vai con gli avanti, sviluppi l'altro, eccetera, eccetera. Questa è una prima generica descrizione appena fenomenica di questa struttura profonda, poi in realtà lui dice no, ci sono strutture che vanno, ci sono delle regole, si può invertire in un certo caso, non nell'altro, eccetera, eccetera. Quindi, struttura allora, grammatica universale, struttura superficiale, struttura profonda, caratteristiche e regole delle catene, cioè delle sequenze di simboli, che si organizzano all'interno di questa cosa chiamata struttura. Va bene, allora, siccome io sono un ex, diciamo, chomskiano, ovviamente essendo mi laureato su Chomsky, ho poi aderito evidentemente per tanti anni a questo modo di pensare. La cosa mi veniva particolarmente facile e semplice perché in realtà aderivo a tanti altri universalismi che non, anche in maniera inconsapevole, nella mia, diciamo, giovinezza, uno dei quali per esempio era il marxismo, che era un'altra forma di universalismo, quindi diciamo, vabbè, insomma. Poi devo dire il chomskismo è stata una, come dire, ho maturato il mio distacco dall'ipotesi Chomsky molto prima di quanto non avrei maturato il mio, diciamo, distacco dall'ortodossia marxista, ci ho messo più tempo a superare il marxismo che non a superare il chomskismo, insomma, però chomskismo è stata la prima cosa che ho imparato. E la cosa che ho imparato è perché, studiando non solo i testi che avevo studiato nei primi anni 70 per l'Oreale, ma avendo continuato per un po' a studiare, forse no, ma comunque a leggere Chomsky, mi sono accorto che Chomsky ha, come dire, cominciato a costruire queste regole. Cioè non ha mai dato una versione della grammatica universale, ma lui non ha mai neanche preteso di darla, ha solo detto la cosa è molto complicata, quindi i singoli ricercatori, io per primo, possiamo solo trovare qualche piccola regola e cominciamo a dare queste regole. Una delle regole che lui, per cui va più famoso, quella dei suoi risultati, è la cosiddetta regola dell'inversione, quella che lui chiama regola del VH, nelle frasi interrogative. No? Allora, forse però non ho finito di spiegarti la differenza tra struttura profonda e struttura superficiale, quindi adesso faccio un piccolo passo indietro. Allora, questa struttura profonda, che adesso così è soltanto abbozzata, è una struttura di tipo, diciamo, logico, di tipo mentale, che spesso non è neanche cosciente al singolo parlante. Cioè, il parlante non è consapevole che sta utilizzando questa cosa strana e misteriosa chiamata struttura profonda. Perché dice, in realtà questa struttura esiste nella mente, però non è una struttura cosciente, è una struttura che il parlante adotta inconsapevolmente. Anche questo è un fatto giusto, è un fatto banale, sappiamo tutti che per parlare non occorre conoscere la grammatica. La gran parte della gente parla senza conoscere la grammatica, parla perché ha appreso il linguaggio, diciamo, da piccolo, mettendo insieme una serie di cose. E infatti il, diciamo, pensiero empirista e scettico ha sempre sostenuto, Locke, Hume, eccetera, a partire da quelli fino, che la costruzione del linguaggio è una costruzione puramente associativa. E semplicemente si impara a mettere insieme i suoni, le parole, eccetera, sulla base di quello, imitando quello che abbiamo come sentito, eccetera, eccetera. Faccio un'altra piccola digressione, perché qui c'è un altro punto importante della teoria di Chomsky. Chomsky è fortemente contrario a questa teoria. Non è possibile, dice, non è impossibile spiegare il linguaggio, anche su questo c'è una parte di ragione, come è ovvio, è impossibile spiegare il linguaggio con una cosa, con un'ipotesi puramente associativa, puramente, diciamo, empirica. Sarebbe impossibile, dice lui, che su base puramente empirica un bambino in poco più di un anno di vita, un bambino, quindi una persona, come dire, all'inizio della sua carriera di essere umano, insomma, in così poco tempo acquisisse una struttura così complicata come quella del linguaggio. Quindi dice, non si può essere empiristi da questo punto di vista, non si può pensare che il cervello umano nasca come una tabula rasa. In realtà il cervello umano nasce, e su questo ha probabilmente ragione, con una predisposizione al linguaggio, e però poi lui fa un salto che invece è ovviamente discutibile, e quindi con una grammatica universale già stampata nel suo cervellino. È qui che io trovo che sia criticabile Chomsky, perché dire che si nasce con una predisposizione al linguaggio non vuol dire automaticamente che si nasce con una struttura, cioè con un insieme, diciamo, di regole. Comunque questa è la ragione per la quale Chomsky è un innatista. Cioè sostiene che quella che lui chiama la competence linguistica, la competenza linguistica, è un tratto innato degli esseri umani. Non è una... Ma ci vedi? Sì. Ma se c'è non mi piace. Sì, cioè, se continuo così non ci vedrò più. Brava, infatti, è tutto archivello. Io parlo, quindi posso parlare anche al buio. Ma. Allora, la competenza, quindi, è qualcosa che fa parte del livello innato e anche, in altri momenti, inconsapevole. Mentre, naturalmente, noi non conosciamo la competenza linguistica di una persona. Tu non hai accesso alla mia competenza linguistica. A che cosa hai accesso della mia lingua? A quello che io dico, quindi alla mia performance. Alla mia performance, diciamo, linguistica, sì. La differenza tra competence e performance è un altro dei punti cardine della teoria chomskiana. E ovviamente è collegato con... La competence è il livello inconscio, inconsapevole. La performance è il livello consapevole, quando uno parla per mettere insieme le cose e dire quello che vuol dire, ha un certo scopo e mette insieme le parole per quello scopo. Quindi, competence innata, performance acquisita, competence inconsapevole, performance consapevole, competence deep structure, performance surface structure. Competence, struttura profonda. La struttura profonda agisce, quindi la grammatica universale è l'oggetto della competenza linguistica degli esseri umani. E l'ipotesi universalistica è uguale per tutti gli esseri umani, perché tutte le lingue, secondo Chomsky, condividono questa grammatica universale. Questa è la sostanza della sua ipotesi. Poi questa struttura profonda, questi algoritmi, di queste strutture ad albero, F, SN, SV, SV, SP, bla bla, e più che ne ha, più ne diventa, al limite integrate con qualche cosa della fonologia, che vedete, cioè, lui chiama componenti queste cose, no? Lui dice, nel linguaggio c'è una componente sintattica, quella a cui lui parla quando fa questa cosa, c'è una componente fonologica, che è il modo in cui si mettono insieme i suoni. Ogni lingua c'ha il suo, ma dice lui Trubetskoy ci ha già dato un'idea di qual è la struttura universale della fonologia di tutti i, come dire, linguaggi umani. Bene, adesso più o meno ci ho dato una, sia pure rapida, però più completa descrizione dei caposaldi della teoria. Adesso ciò anche tanti anni che non so più questi studi, che sono rotti coglioni, anche perché, adesso detto, io lo dico in maniera, non ha cavato un ragno al buco. In 30 anni, di 30-40 anni ormai, di ricerca di questo tipo, né Chomsky né i chomskiani hanno mai davvero trovato una mezza regola di staccarsi di grammatica universale. Non ne hanno mai trovata una, probabilmente perché non c'è, probabilmente perché non esistono queste regole della realtà. Il punto da cui, in cui io cominciai a avere dei dubbi sull'ipotesi di Chomsky fu appunto questa famosa regola dell'inversione, regola del vuota, perché la chiamata regola del vuota. Già solo chiamare regola del vuota dovrebbe essere chiaro, perché in inglese tutte le particelle in cui ci sono domande cominciano con il vuota, who, where, which, what, eccetera, eccetera, no? Quindi regola del vuota. E effettivamente in inglese c'è un'inversione dell'ausiliare do you want to follow me to the restaurant? How do you do? Where you are from? E c'è sempre un'inversione del soggetto nel colore della cosa. E va bene, bravo, capito? Ma questa è la lingua inglese, al massimo potrai tentare di convincermi che anche nelle altre lingue germaniche, o forse in tutte le lingue indo-europee, c'è dietro un insieme di cose di questo tipo, ma insomma, cioè, dimmi tu se io posso, per forza, devo appiccicare questa roba alla lingua cinese, alla lingua Hopi, alla lingua, no? E non... cioè, è una ipotesi molto ideologica, diciamo di fondo, ideologica nel senso che si vada su questa ideologia universale dell'innatismo e della di questa idea non solo che ci sia una struttura innata, ma che questa struttura sia descrivibile realmente. Sei stanca? No. Sicura? Sì. Andiamo avanti fino alla fine. Andiamo. Io non sono stanco manco io qui. Allora, facendo questo, allora con questo adesso non ho usato dei termini, quindi mi sono corretto, è ovvio che bisogna avere il massimo rispetto per quello di Chomsky e per un programma di questo tipo, perché è stato utilissimo per capire poi una serie di meccanismi, eccetera, ma il punto di partenza dietro è obiettivamente sovradimensionato rispetto ai materiali che lui aveva e che è possibile avere a, come dire, disposizione, e soprattutto è questo che mi permetto molto modestamente e umilmente di dire, ed è quello che cercato di raccogliere in questa distensina che adesso ti darò, svaluta e trascura e sottovaluta tutto un lavoro in gran parte precedente al suo, e che è un lavoro in parte di qualcuno che lui addirittura rivendica come un sostegno per la sua ipotesi. E il nome più importante da questo punto di vista è quello di Wilhelm von Humboldt. Wilhelm è un tedesco, quindi dove sta? Wilhelm von Humboldt, qua. I fratelli Humboldt erano due fratelli tedeschi, Wilhelm, diciamo, il linguista, filosofo, eccetera, e Alexander era invece un geografo, esploratore, diplomatico. Ma insomma, quello più importante è questo Wilhelm von Humboldt, che fu il fondatore della famosa università di Berlino, che si chiama von Humboldt, non a caso, sono dedicato a loro. Allora, von Humboldt scrisse un libro importante, pubblicato nel 1800, l'ho scritto o no? Un'opera postuma, perché lui muore nel 1835, lui vive a cavallo tra 700 e 800, che si chiama, cioè lui scrive una lingua sulla lingua Kawi, che era l'antica lingua dei poeti di Giava, un'opera che esce postuma. In realtà l'opera per cui noi lo conosciamo è l'introduzione a quest'opera, sono tre volumoni, è un'introduzione lunghissima, che si chiama Sulla diversità delle strutture linguistiche, tu basta che metti questo perché è poi lungo, e la loro influenza sullo sviluppo spirituale del genere umano, e che infatti è quella che è disponibile anche in italiano. Ora Humboldt, che viene spesso citato da Chomsky come dire, a sostegno delle sue tesi, invece in quest'opera, in maniera non chiara, insomma io cito, cioè, poi dopo insomma, ti leggerai qualche passaggio che io metto lì, invece ha delle formulazioni da cui sembra di capire che lui pencoli verso un'altra, diciamo, come dire, ipotesi, cioè opposta a quella universalista, una che potremmo chiamare relativista. Adesso so che il termine relativista è un termine che oggi fa schifo, perché tutti ce l'hanno contro il relativismo, eccetera, eccetera, però insomma, io non so, si può anche cambiare nome, se non vogliamo chiamarlo relativismo, non vogliamo chiamarlo scetticismo, chiamiamolo come diavolo vogliamo, basta che sia chiaro che è l'opposto dell'universalismo, l'opposto del, cioè questo voglio dire, quindi io come dire, personalmente la chiamo, diciamo, relativista. La seconda cosa che ha sottovalutato Chomsky è che non tutti, ma una gran parte dei linguisti, soprattutto americani, e bisogna dire che a parte, io ti ho fatto una storia finora della linguistica che è prevalentemente europea, perché da un certo punto di vista per i concetti fondamentali sono stati trattati più in Europa, ma dal punto di vista del lavoro linguistico vero e proprio sul campo, cioè anche di tipo teorico, cioè lo sviluppo di teorie linguistiche del linguaggio, probabilmente è stata l'America che è stata più importante, gli Stati Uniti. E negli Stati Uniti la linguistica, più che in Europa, ha un'origine etnografica, etnologica, antropologica, cioè detto banalmente è stata sviluppata da studiosi di antropologia, da persone che hanno passato gran parte della loro vita a contatto con culture diverse, con lingue diverse, e poi italiano, il nome più chiaro da cui si sa per tutti è Franz Boas, il vero fondatore della linguistica americana e uno dei giganti della linguistica del Novecento, diciamo, è questo Franz Boas, un signore che è insieme fondatore della linguistica, ovviamente della linguistica americana, e dell'antropologia americana. È quello che ha cominciato a produrre la prima gigantesca opera di catalogazione delle lingue e delle culture amerindie che si andavano estinguendo sotto i suoi occhi, esattamente negli ultimi anni dell'Ottocento, lui già con ansia vedeva queste comunità che erano sempre più risente, sempre più piccole, insomma, no? È buffo e, come dire, sintomatico che l'etnologia sia l'etnografia prima, l'etnologia poi siano nate nel seno della stessa cultura che aveva determinato le cause dell'estinzione di questo, cioè erano gli stessi uomini bianchi che avevano sterminato queste popolazioni, che a un certo punto non gli stessi, chiaramente Franz Boas non ha mai preso un fucile in mano, ma insomma era il figlio, l'erede, il nipote, faceva parte di questa, della stessa civiltà che era quella che era stata ed è ancora oggi responsabile della distruzione di intere culture, della distruzione, non della emarginazione, ma della distruzione vera e propria di intere culture, di intere lingue, eccetera, eccetera. Ma questa è una delle contraddizioni che noi esseri umani occidentali ci portiamo dietro, perché abbiamo insieme queste cose. Allora, quando Franz Boas comincia a fare questo, diciamo, lavoro, allora Boas non ho scritto neanche quando nasce e quando muore qua, ma insomma comunque, che si chiama, questo lavoro si chiama Handbook of American Indian Languages, manuale delle lingue amerindie, insomma delle lingue americane indiane, che avrebbe dovuto contenere le descrizioni essenziali delle 55 famiglie in cui allora venivano, erano gli Stati Uniti, l'attuale territorio degli Stati Uniti, ma il Nord America, USA più Canada più Centro America, insomma il Nord America era uno, era ed è uno adesso no, perché tutti parlano inglese, ma insomma storicamente è stato uno dei gruppi di maggiore ricchezza linguistica, vengono parlate lingue diversissime. Infatti addirittura le lingue amerindie ai tempi di Boas erano raggruppate in 55 famiglie, e quindi vuol dire che 55 famiglie vuol dire almeno due o tre lingue per ogni famiglia c'erano, insomma, per dire a volte anche diciamo di più. E qui è un tipo di lavoro che lui non ha mai finito, e quindi non ha. Ora, per forza di cose, quando una linguistica, quando il lavoro linguistico nasce sulla base di una così grande massa di materiale linguistico differente, diverso, no? Beh, diavolo, in qualche modo la prima cosa che viene in mente non è tanto che ci sia qualcosa che accomuna queste lingue, questo qualcosa ci sarà comunque, certo, però insomma diciamo non si andrà, è più probabile che non si vada al di là di una ipotesi minimale su ciò che accomuna queste lingue, cioè la capacità di parlare, quindi diciamo il principio della doppia articolazione, la capacità di mettere insieme suoni, diciamo catene di suoni e assegnare un certo significato a ognuna di queste catene di suoni. E non invece verso un'ipotesi quindi più debole, diciamo di universalismo debole e non di universalismo forte, come quello chomskiano dice, no, c'è una struttura, c'è una grammatica universale, sono delle regole che sono uguali, come dire, per tutti. L'allievo più importante di Boas è il più grande, forse il più grande linguista americano della prima parte del Novecento, che è Igor Seppi. Che nasce anche lui alla fine dell'Ottocento e poi muore nel 1939. Che era nato in Germania, ma che poi arriva. Allora qua c'hai tutto, quindi ti leggi tutto e poi ti lascio solo la cosa. Di Seppier, dunque Seppier fu anche lui in parte un antropologo e in parte un linguista, cioè fece anche del lavoro sul campo nell'antropologia, e comunque è più famoso perché scrisse diversi testi, diciamo, come si dice, insomma, specialisti, eccetera, poi scrisse un gran libro divulgativo che ancora oggi è una delle cose più belle, peccato che non ci sia più in edizione italiana, che si chiama appunto Il linguaggio, che è uno dei testi più interessanti che è l'opera divulgativa più interessante sulla struttura, comunque sulle caratteristiche del linguaggio, eccetera. Però il pezzo che ho riportato io in questa antologietta è invece tratto da un'altra opera che si chiama Cultura, linguaggio e personalità, che è un insieme di saggi, un insieme di interventi su temi sia di linguistica che di antropologia. Ed è bello perché se lo leggiamo almeno dei pezzi, adesso poi potrò leggere tu con più calma, ma dice: è un'illusione pensare di poter comprendere i principali lineamenti di una cultura senza la guida del sistema simbolico linguistico che li rende significativi e intelligibili per la società. Verrà un giorno in cui i tentativi di conoscere a fondo una cultura primitiva senza l'aiuto della lingua appartenente alla società che l'ha sviluppata sembreranno tanto dilettanteschi quanto ora apparirebbero le fatiche di uno storico che non sapesse adoperare i documenti originali di una civiltà che gli volesse descrivere. La lingua è una guida alla realtà sociale. La lingua è una guida alla realtà sociale. Benché la lingua non sia di solito ritenuta di importanza vitale per gli studiosi delle scienze sociali, essa tuttavia condiziona fortemente tutto il nostro pensare sui problemi e sui processi sociali. Gli esseri umani non vivono soltanto nel mondo obiettivo, nel mondo oggettivo, e neppure soltanto nel mondo dell'attività sociale comunemente intesa, ma si trovano in larga misura alla mercé di quella particolare lingua che è divenuta il mezzo di espressione della loro società. È proprio un errore di valutazione immaginare che una persona si adatti alla realtà essenzialmente senza l'uso della lingua e che la lingua sia solo un mezzo accidentale di risolvere specifici problemi di comunicazione o di pensiero. L'essenza della questione è che il mondo reale, tra virgolette, viene costruito in gran parte inconsciamente sulle abitudini linguistiche del gruppo. Il mondo reale viene costruito in gran parte inconsciamente sulle abitudini linguistiche del gruppo. Non esistono due lingue che siano sufficientemente simili da essere considerate come rappresentanti della stessa realtà sociale. I mondi in cui vivono differenti società sono mondi distinti, non sono semplicemente lo stesso mondo con etichette differenti. È chiaro cosa dice? Dice, non esiste il mondo, esiste una realtà, certo, i fiumi, le robe, eccetera, ma il mondo, quell'insieme di oggetti e di relazioni dentro cui noi viviamo e che noi chiamiamo mondo, non ha una realtà uniforme. Non ci sono delle caratteristiche universali, o meglio, lui qui non ne parla, ci dice, forse c'è una parte comune, quello che lui dice non esclude che ci possa essere una parte comune, però lui mette l'accento in questo momento sul fatto che questi mondi non hanno una realtà, non diciamo obiettiva, ma non hanno una realtà indipendente da quella linguistica, è in gran parte il linguaggio, lo strumento con cui noi costruiamo il mondo. Questa è la tesi di Sapir. E adesso veniamo al personaggio chiave invece della cosiddetta relatività linguistica, che è un allievo di Sapir, ma molto sui generis, molto, perché è un ingegnere, uno che non era linguista di formazione, che andava in giro, un giovanotto, che andava in giro per l'America lavorava per una compagnia di assicurazione e quindi doveva andare a controllare e a vedere che la gente avesse primo capito bene le norme di sicurezza di certi aggeggi e che poi le avesse applicate. In genere c'erano stati degli incidenti e l'assicurazione ovviamente lo mandava in giro per cercare di non pagare o di pagare il meno possibile. Benjamin Lee Whorf nasce 13 anni dopo Sapir, quindi nel 1897, e muore pochi anni dopo di lui, ma quindi più giovane, nel 1941. E come diavolo gli viene? Adesso raccontare la storia di Whorf, io ci ho messo qualcosa qua, ma insomma è un altro di cui non credo che si trovi più niente adesso in giro in italiano. Benjamin Lee Whorf, si chiama così, Whorf con il Whorf. Il cosiddetto principio di relatività linguistica si chiama anche ipotesi Sapir-Whorf, non perché né Sapir né Whorf l'hanno mai enunciato in maniera così, abbiamo fatto questo principio, però mettendo insieme alcune cose che ha scritto Sapir, per cui quelle che ti ho detto prima, e alcune cose forse anche più chiare che ha scritto questo Whorf dopo, si può ricavare questa, diciamo, idea. Allora, quindi Whorf arriva alla linguistica perché per forza di cose il suo lavoro lo ha messo in contatto in modo pratico con una serie di performance linguistiche, molti anni dopo, e quindi forse per questo comincia a dire, ma come parla la gente, ma cosa vuole esprimere la gente, ma questo ha davvero capito, non aveva capito, mi prende per il culo, mi piglia in giro, vuole i soldi d'assicurazione, e qui, diciamo, adesso più in là di quello, poi sì, lui per una certa fase si interessa delle teorie di un tipo Strambo, che in realtà uno degli ultimi sostenitori nei primi del Novecento addirittura vissuto tra 700 e 800, uno dei sostenitori dell'ebraico come lingua primitiva, insomma c'è una serie di robe, c'è solo parlare della lingua primitiva della Torre di Babele, che insomma ti ho detto prima. Però stranamente, sulla base di questo, dopodiché si trova per un periodo a, non so bene perché, si trova in contatto con, prima studia la lingua azteca, perché la lingua azteca ancora negli anni 30 era parlata, adesso non credo che ci siano più neanche delle comunità che la parlano, ma negli anni 30-40 ancora c'erano delle piccole comunità, Nahuatl, in alcune zone del Messico, che parlavano ancora un derivato della vecchia lingua. Quindi si mette a studiare questa e poi si mette a studiare principalmente una lingua indiana, amerindia, che era, si stava per, credo che adesso sia quasi estinta, che è lo Hopi. Si mette lì e da dilettante si mette a, come dire, ma da, come dire, dilettante talmente accanito e talmente bravo, poi scrive una lettera a Xepi, comincia a scrivere un paio di saggetti, glieli pubblicano subito le riviste, diciamo, di linguistica, viene invitato a alcuni convegni e parla ad alcuni convegni di linguistica. Seppir cerca di fargli avere un posto all'università, ma non credo ci sia mai riuscito, e segue i corsi di antropologia, insomma di Yale, nel 31-32, no, però non cerca mai una vera, e nel 37-38 per un anno fa il lettore, cioè come fossi io, sono professore a contratto, di antropologia a Yale, e muore nel 41 a 44 anni, quindi molto giovane. È proprio studiando la lingua Hopi che Worf scrive le cose più chiare sulla retranscrizione. In pratica lui ha scritto talmente poco che tutto quello che ha scritto si trova in un libro unico, che è poco più di 300-400 pagine, che è l'insieme delle poche cose, quasi tutte le cose che ha pubblicato in vita. Sono tutti articoli o saggi, divulgativi, alcuni divulgativi, altri specialistici, su varie, diciamo, riviste. Il libro si chiama in inglese Language, Thought and Reality, e la traduzione italiana, diciamo, fedele a linguaggio, pensiero e realtà, in realtà credo che non esista però neanche più, neanche questa ormai in italiano, questa, diciamo, domanda. Il suo studio della lingua Hopi lo pone Worf, cioè Hopi della lingua azteca, cioè, insomma, con 20 anni di anticipo rispetto a Chomsky, alla stessa domanda di Chomsky: ma esistono strutture universali comuni a tutte le lingue? Però la sua risposta è totalmente l'opposta, totalmente estranea a quella di Chomsky. Anche qua leggiamo un saggio del 39, quindi di 2 anni prima, che è un saggio molto importante, che si chiama La relazione del pensiero abituale e del comportamento con il linguaggio, The Relation of Habitual Thought and Behavior to Language, nel 1939. E mette i piedi nel piatto lui, e in modo anche, voglio dire, però già abbastanza preciso, perché non è che dice in genere, ma adesso vediamo che cosa fa. Quando all'inizio del saggio dice: la parte della ricerca di cui parlerò qui può essere riassunta in due domande. I nostri concetti di tempo, spazio e materia, quindi tre concetti di quelli forti, no? Che stanno, i nostri concetti di tempo, spazio, materia ricevono dall'esperienza sostanzialmente la stessa forma per tutti gli uomini o sono in parte condizionati dalla struttura delle singole lingue? Chiaro? 2. Ci sono affinità individuabili tra A, le norme culturali e di comportamento, e B, le strutture linguistiche generali? Quindi lui cerca di... Ora, queste sono due articolazioni diverse di una domanda di fondo unica. Esistono universali linguistici? Cioè, esistono strutture, concetti che possano essere predicati, di cui si possa parlare per tutte le lingue, diciamo, del mondo? E qui si mette lì e fa degli esempi concreti e specifici sulle categorie linguistiche delle lingue europee, in cui sono quelle della lingua Hopi. Per esempio ci spiega che nella lingua Hopi i verbi non hanno un tempo, no, non sono divisi in verbi al presente, passato e futuro come nelle lingue indo-europee. Eppure lui ci spiega anche con degli esempi, io non so cosa arriva a Hoppe, ma insomma da come li spiega lui stasera, sono degli esempi convincenti. Gli Hopi riescono a esprimere dei concetti affini a quello di tempo, però per esempio il loro concetto di tempo si vede dalla lingua che non è diviso come noi così rigidamente in passato, futuro e questo istante di transizione del passato futuro che è il nostro vago concetto di presente. No? In qualche maniera, se non mi ricordo male adesso, è un po' che non lo rileggo questo saggio, ma sono quando ho fatto questa dispensa 3 anni fa, 4 anni fa, quando ho fatto qua, 2009-2010, e sembra come se per l'indiano Hopi non ci sia mai una azione passata totalmente, cioè che abbia smesso di avere azione nel presente. Qualunque azione per un indiano Hopi, allora questo per esempio è uno dei modi in cui si può dire il linguaggio influenza il modo di pensare. Adesso non sappiamo se sia il linguaggio che influenza il pensiero o il pensiero che influenza il linguaggio, ma comunque in qualche modo nelle lingue indo-europee l'esistenza di tre modi, di tre categorie verbali così chiare, così diciamo distinte come presente, passato, futuro, è comunque collegato, lasciamo perdere qual è la causa, è comunque collegato con un modo di vedere il tempo corrispondente. Noi, non c'è dubbio, noi, e in questo noi, gli inglesi, gli slavi e tutti quelli che parlano lingue di questo tipo, abbiamo una visione del tempo simile. Il tempo, lo vediamo, c'è un tempo passato in cui non tutte le cose, ma almeno alcune cose sono accadute e sì, ci influenzano in modo indiretto, ma non esistono più nell'oggi. I ribelli di Catilina furono sconfitti dal console romano Marcello alla battaglia del Metauro. Punto. La battaglia del Metauro, in cui un secolo prima di Cristo o 20 anni dopo Cristo, non mi ricordo quando, il console Marcello sconfigge Catilina, sì, attraverso una serie di lunghe catene si può dire ha delle conseguenze ancora oggi, ma è un'azione che è finita, è lì, sta in quel limbo lì. Non ci riguarda più a noi, probabilmente per un Hopi non è così. Quando l'Hopi ti racconta una roba che è successa nel lontano passato, in qualche modo questa cosa successa continua a succedere in qualche maniera ancora oggi. Non si vuol dire che abbiamo più ragione noi oppure gli Hopi, soltanto che sono due modi di vedere molto molto diversi. Allora, vediamo che cosa dice Worth dopo essersi posto questa domanda. Prima fa tutta questa cosa che vi ho detto, poi dice: per riassumere alla prima domanda posta all'inizio, cioè i concetti di tempo, spazio e materia sono universali, cioè ovviamente hanno la stessa forma per tutti o sono condizionati in parte dalla struttura del lingua. Per rispondere a questa domanda si può rispondere così: i concetti di tempo e di materia, adesso non parlo dello spazio, tempo e di materia, non sono dati dall'esperienza a tutti gli uomini sostanzialmente nella stessa forma, ma dipendono dalla natura della lingua o delle lingue attraverso il cui uso si sono sviluppati. Dipendono dalla natura della lingua o delle lingue il cui uso si sono sviluppati. Essi non dipendono tanto da un particolare sistema della grammatica, per esempio tempi o nomi, quanto dai modi di analizzare e riferire l'esperienza che si sono affermati nella lingua come modi di parlare integrati, modi di parlare tra virgolette integrati, e che travalicano le classificazioni grammaticali tipiche, sicché un modo può includere mezzi lessicali, morfologici, sintattici o altri mezzi sistematicamente connessi con un certo schema coerente. Il modo in cui ti ho parlato sinora, io prima l'esempio con gli Hopi, probabilmente invece risente ancora della mia eurocentricità, della mia indo-europeo-centricità, perché ho usato la struttura di tempo, e lui si è dovuto inventare Worth un'altra categoria che chiama il modo, tra virgolette, modo di parlare. Per esempio, ci spiega adesso, il nostro tempo differisce profondamente dalla durata degli Hopi. Gli Hopi hanno un altro concetto che lui chiama durata. Non a caso lo stesso termine che usa il filosofo francese Bergson, il quale tentò anche lui agli inizi del Novecento di dare un'altra idea del tempo che non fosse quello scandito, cronologico, misurabile, quantificabile di cui noi abbiamo, e come dire, lo chiamò con un termine analogo, durata. Quindi lui chiama durata il modo che hanno gli Hopi di, diciamo, concepire il tempo. Il nostro tempo differisce profondamente dalla durata degli Hopi, è concepito come uno spazio di dimensioni strettamente limitate, il nostro concetto di tempo, o talora come un moto su tale spazio, e di conseguenza così è usato come strumento intellettuale. Effettivamente noi spesso concepiamo il tempo, noi non abbiamo nessuna idea del tempo, in realtà se noi distinguiamo il tempo è perché distinguiamo la posizione differente di un oggetto nel tempo, è il movimento che ci fa venire in mente l'idea di tempo e il fatto che certi oggetti o noi stessi ci muoviamo nello spazio e occupiamo posizioni differenti in tempi diversi, ok? Ma il concetto di tempo forse non è, o forse questo è un modo per vedere, adesso non voglio decidere precisamente su questa, come dire, questione, cioè se noi non abbiamo invece un concetto intuitivo di tempo autonomo, separato, e poi a questo sovrapponiamo una sorta di tempo misurabile, può darsi di sì, può darsi di no, però fatto sta, allora, siamo comunque per come l'uomo occidentale parla del tempo, il tempo in qualche modo è una sorta di scatola, dice lui, no? In cui sono chiuse, oppure è un insieme di posizioni differenti occupate da un oggetto, il parametro attraverso il quale io posso descrivere il moto di un oggetto lo chiamo tempo. La durata degli Hopi sembra inconcepibile in termini di spazio e di moto, essendo il modo in cui la vita differisce dalla forma e la consapevolezza globale degli elementi spaziali della coscienza. Quindi, gli Hopi sembrano avere un concetto di durata che esprime la differenza che c'è nella loro testa tra la vita e la forma. Quindi la vita sarebbe, per gli Hopi, sarebbe la vita ad essere caratterizzata dal tempo. Secondo loro le forme non hanno tempo. Anche noi forse potremmo, quando Platone parlava del mondo iperuraneo, descriveva le forme eterne, immutabili, eccetera, però noi anche quando diciamo eternità, anche la nostra eternità non è che nella nostra idea della eternità il tempo non passa, semplicemente non succede nulla. Noi così possiamo immaginarci l'eternità, no? Però non è che possiamo non immaginarci il tempo. Anche quando pensiamo al paradiso, metti che siamo cristiani, cattolici, bravissimi, pensiamo al paradiso, vedremo Dio, eccetera. Non è che pensiamo che non c'è più il tempo nel paradiso. Il tempo c'è sempre. Se noi facciamo tutti la stessa cosa, stiamo lì, guardiamo Dio, ci pisciamo sotto dalla libidine però il tempo, se ti piace Dio, diciamo, che bello, sono qua, che mi vedo Dio, ma non è che diciamo non c'è più il tempo, no, il tempo passa, solo che io sono sempre di ferro, va bene, ok, bravo. È quasi impossibile per noi riuscire, mentre secondo lui, secondo lui dalla lingua, lui ha ricavato l'idea che per gli Hopi il tempo è qualcosa di collegato con il vivente, con la vita e non con la forma, anzi addirittura è il modo in cui la vita differisce dalla forma e la consapevolezza globale degli elementi spaziali della coscienza, lui dice, quindi sono. Adesso qui è un po' difficile leggere tutto quanto il saggio per capirlo meglio, ma la stessa cosa dice, la nostra materia è il sottotipo fisico di sostanza, che è concepita come l'entità informe ed estesa a cui deve essere conferita una forma per avere un'esistenza reale. Per noi la materia è una specie, no? Proprio nel senso del termine latino, substantia o substratum. È una sostanza, qualcosa che sta sotto, un sostrato, una sorta di cosa indifferenziata, poi arriva qualche cosa e assume certe forme. Una montagna, un corso d'acqua, una cellula, un essere vivente, un calcolatore, ma sono tutti oggetti materiali che hanno delle forme differenti, no? Però c'è questa sostanza. Lui dice, in Opi non sembra che ci sia nulla che vi corrisponda, non ci sono entità informi o estese. L'esistente può avere forma o non averla, ma inoltre, con o senza forma, ha intensità e durata, sempre, qualità queste che non sono spaziali. Quindi mentre noi abbiamo una concezione spaziale della materia, e infatti non a caso Cartesio quando dovete dare una definizione di materia disse res extensa, che cos'è la materia? È la cosa che ha estensione, che si estende nello spazio, si intende, quindi senza lo spazio per noi sarebbe, invece per l'Opi, allora, e attualmente siamo, magari ancora, non abbiamo ancora capito bene, insomma, che... Ma ad un certo punto, e qui ci ho messo il pezzo che mi pare più, diciamo, interessante, perché è quello che ci fa capire, secondo me, che la struttura soggetto-predicato, e quindi la polarità sostantivi-verbi, insomma, l'idea kantiana del fasisia, non è universale. E quindi lui così spiega che le lingue indo-europee e molte altre danno grande importanza a un tipo di frase che consiste di due parti, ciascuna costruita su una classe di due parole, i sostantivi e i verbi, che di queste lingue trattano differentemente in grammatica. Come ho mostrato nel saggio Scienza e Linguistica, questa distinzione non è tratta dalla natura, è solo il risultato del fatto che ogni lingua deve avere una qualche struttura. E queste lingue hanno una struttura di quel tipo. I greci, specialmente Aristotele, esaltarono questa differenza e ne fecero una legge della ragione. Da allora la differenza è stata affermata in logica in molti modi differenti. Soggetto e predicato, agente e azione, cose e relazioni tra cose, oggetti e loro attributi, quantità e operazioni. Chiaro, abbiamo sempre soggetto, predicato, il sostantivo, ciò che dici del sostantivo. Il sostantivo è una sostanza, perché il sostantivo è qualcosa che corrisponde a qualcosa che è lì fisso, stabile, più o meno c'è. Poi tu predichi, dici qualcosa di questo, il treno si muove. Caronia è noioso, e così via, si va avanti, ognuno ha la sua, agente e azione, come si chiamava il puzzle, quel pazzo che era, Simpson, quello che ha beccato la moglie, quello che ha ammazzato la moglie, non era, ma non era un puzzle, no. Da un pugile che conosco, io conosco pugili vecchissimi che voi non conoscete. Tyson. Mike Tyson ha dato un pugno ad un tassista. Mike Tyson è l'agente. L'ha fatto, ha dato un pugno. C'è un soggetto che agisce, dà un pugno a uno. Cose e relazioni tra cose. Questa penna biro è più lunga di questa pila, ma questa pila è più tozza di questa penna biro. Le lezioni di Caronia sono più lunghe di quelle. Le bidelle di Brera decidono quali aule dare a chi. Sono relazioni, le bidelle, le aule, c'è una relazione tra queste. Oggetti e loro attributi. La pila è tozza, la pila è piccola, la pila è scarica, la pila è quello che... Oggetti e loro attributi, quantità e operazioni. Gli italiani sono più dei greci. Gli italiani sono più ricchi dei greci, ma più poveri dei tedeschi. E di nuovo, secondo la grammatica, si radicò la convenzione che una di queste classi di entità può esistere di per sé, i sostantivi, ma che la classe dei verbi non può esistere senza un'entità dell'altra classe, la classe delle cose, come un gancio a cui attaccarsi. Questo così funziona nelle nostre lingue, quelle che conosciamo. La materializzazione è necessaria, è la parola d'ordine di questa ideologia, che di rado viene messa in dubbio sul serio. Eppure l'intera tendenza di sviluppo della fisica moderna, con importanza data al campo, mette implicitamente in dubbio questa ideologia. Il campo elettrico è un oggetto, un'azione, cos'è? Vabbè, c'è un oggetto, diciamo, c'è un oggetto elettricamente carico, oppure c'è un oggetto con due poli magnetici. Questo oggetto crea che cosa? Non si può dire che agisce, non agisce. Finché se tu non gli metti vicino un'altra carica elettrica non succede un cazzo, non c'è nessuna azione. Non c'è neanche nessuna qualità, che qualità si avvicina, no? Che elettrica misura la carica elettrica, punto. Però, se poi metto un certo oggetto elettricamente carico anche lui vicino a questo, mi accorgo che ci sono dei comportamenti diversi di questo oggetto, a seconda se ha carica uguale o contraria a quella dell'altro, allora sono messo vicino o lontano e costruisco faccio dei disegnini sulla carta, costruendo, dicendo che sono delle linee, c'è un campo di forze. Questo concetto di campo di forze, suggerisce lui, è qualcosa che è difficile trattare, noi tentiamo di trattarlo nel modo dualistico, però molto probabilmente di per sé sfuggirebbe a questa cosa. L'esempio che fa dopo è ancora più rilevatore. Questa differenziazione tra le cose e le azioni o le qualità o gli effetti delle cose si ripresenta in matematica con due specie di simboli. Quelli come 1, 2, 3, x, y, z, cioè quelli che rappresentano dei numeri o degli enti matematici, e quelle come più, meno, diviso, radice quadrata, logaritmo, cioè delle operazioni che fai su questi oggetti, ma chi le fa? Non c'è nessun altro oggetto che le fa, non c'è nessun agente. Il logaritmo di 2, logaritmo naturale di 2. Sì, poi dice calcolalo, allora, grazie, si mette lì e calcola, sarei in grado di calcolare il logaritmo tra i due, no, basta che hai un calcolatore qualsiasi, fai il logaritmo quindi se non sei in grado tu trovi di lo fare. Allora in quel caso sei tu che fai un'azione, ma in matematica il matematico suppone che il logaritmo di due esista anche senza che uno lo faccia, quindi come dire, c'è una potenzialità dell'esistenza. E l'operazione di logaritmo, noi la chiamiamo operazione, ma non è una operazione totale, è una relazione, è una qualità particolare, diciamo, come dire, caratteristica. Certo. Allora, però, finché le cose sono, nell'esempio che ho fatto io, 1, 2, 3, 0, 2, 3, ma per numeri come 0, 1 mezzo, 3 quarti, pi greco, questa dicotomia probabilmente non regge. Un mezzo è un numero o è l'azione di due numeri in relazione tra loro? Lo zero cos'è? Zero è un numero che è diverso dagli altri, ha delle qualità, delle proprietà diverse. Pi greco, non ne parliamo. Non esiste nessuna equazione algebrica che abbia pi greco come soluzione, quindi dicono i matematici con una brutta parola, che è un numero trascendente, non è algebrico, non c'è nessuna equazione algebrica. Le lingue indiane, le lingue degli indiani d'America, mostrano che con una grammatica conveniente si possono avere frasi sensate che non possono essere scisse in oggetto e predicato. Ogni tentativo di scissione è una scissione di qualche traduzione o parafrasi inglese della frase e non della frase indiana stessa. È come tentare di decomporre una retina sintetica in celluloide e gesso, perché la resina può essere imitata con la celluloide, con il gesso, ma la resina in quanto tale non c'ha la celluloide e il gesso. È bello, vedi, si vede che era un chimico, quindi sapeva fare. La famiglia delle lingue algonchine, a cui appartiene la lingua Shoni, non usa un tipo di frase come il nostro, fatto di oggetto, di soggetto e predicato, ma soprattutto il tipo illustrato dagli esempi nel testo e in figura 13. Allora, facciamo... Allora, per esempio, in italiano ci sono due frasi, questi sono degli esempi che fa lui, quindi nella traduzione non so perché non ho letto il testo inglese, quindi non so, comunque, diciamo. Ci sono due frasi che in italiano non si somigliano per nulla, mentre in questa lingua Shoni sarebbero visti molto simili. Le due frasi di lui sono io tiro via il ramo, e io ho un dito in più nel piede. Sembrano diverse queste frasi, no? Perché io tiro via il ramo è un'azione che io faccio, prendo un ramo e lo tiro via. Ho un dito di più nel piede, invece è uno stato di fatto. Non è... Allora, le frasi Shoni, dice invece, sono molto simili. Nil sawa kona e nil sawa kohite. Questo ni è un prefisso, quello con cui comincia la frase, che significa io. La parte sawa, che sta in tutte e due, è un termine comune in Shoni e indica un profilo a forchetta. Così. Nella prima frase, ko si riferisce a un albero, arbusto o parte di essi. La N significa con un'azione della mano. Mentre la A finale indica che il soggetto, cioè io, opera con un oggetto appropriato. Quindi questa frase in Shoni, in grosso modo, significa io tiro via il ramo. Io perché sono ni. Il sawa perché faccio un'azione in cui le cose prima sono in un modo e poi sono nell'altro. Ko c'è di mezzo un albero o una parte di esso. N. Faccio un'azione della mano, quindi l'ho fatto con la mano, ho preso il ramo, la finale, il soggetto, cioè io ho operato con un oggetto appropriato, cioè ce l'ho fatta. Se la frase fosse stata ho provato a tenere via il ramo ma non ci sono riuscito, probabilmente questa finale non ci sarebbe. La seconda frase è quasi tutta simile tranne il finale. Nella seconda frase, il suffisso fite significa che ha a che fare con le dita dei piedi, mentre l'assenza di altri suffissi indica che il soggetto presenta la condizione sulla sua persona. Quindi, per dire che io ho un dito in più al piede, io dico la stessa cosa che dico, ho preso il ramo e l'ho tirato via, semplicemente che non gli ho messo l'N, quindi non ho detto che ho fatto un'azione con la mano, anzi, dopo il fite, che è qualcosa che riguarda le mie dita dei piedi, non c'è nulla, quindi vuol dire non ho fatto una azione su questo, ma è una condizione. Cioè non ho fatto. Allora, vedi che con una struttura grammaticale di questo tipo, due frasi così diverse come prendo un ramo e la tiro via e ho un piede con un dito in più, si dicono con una struttura grammaticale simile, mentre non si dicono con una struttura simile in terra, perché qui io compie un'azione, qui io ha una, come dire, situazione, ma devo usare un verbo ho e poi devo mettere in più, mentre invece l'idea di il termine sawa chiaramente opera nella prima frase in modo astratto, non c'è nessuna forchetta reale, o forse c'è un ramo, ma dice, io so, mentre nella seconda parte indica una cosa concreta, cioè il fatto che io ho un dito al piede in più. In Shoni le due frasi quindi suonano rispettivamente io, qualcosa come il ramo di un albero, tiro, allargandolo o allontanandolo dove si biforca, e Io ho un dito dei piedi in più che si biforca come un ramo da un dito normale. Quindi vedi, questo Sawa è, come dire, usato, ha detto Jacobson, nella prima fase in forma metaforica, nella seconda fase in forma con funzione metonimica. Cioè, allora, poi vedi che possiamo trovare anche delle strutture come quelle che noi usiamo per le lingue, ma... Allora, di fronte a una cosa di questo tipo, e poi alle cose che adesso ti ho fatto quello di esempio, insomma, mano a mano te li leggi, ci ho messo anche i disegnini, questa della lingua Nutka, però bisogna farla perché è molto carina. Egli invita persone a pranzo, è facile. Egli invita, cioè un'azione, persone a pranzo. Un indiano Nutka direbbe: bollito, mangiatori, andare per egli fa. L'imsciaisitaisma. La parola italiana si può dividere in soggetto e predicato. Egli invita. La parola nusca non è divisibile in questo modo. Eppure essa è completa e logica lo stesso, ma non ha cos'è. Inoltre è praticamente una sola parola. È la radice tlimsh con 5 suffissi. Aggiungi suffissi ed è una sola parola, come più simile al tedesco, in cui fanno molte parole composte, anche lunghe con tre parole diverse. Allora, di fronte a tutto questo, insomma, è lecito avere qualche dubbio sull'ipotesi che una grammatica universale ci possa essere davvero, possa esistere, cioè sul fatto che tutte le lingue abbiano questa struttura profonda che dice, che ipotizza Chomsky. Allora, senza offendere nessuno e con il massimo rispetto per il lavoro politico che fa Chomsky, anti-autoritario, anti-imperialista, eccetera, però dal punto di vista concettuale, nella linguistica Chomsky invece ha fatto esattamente quello che critica sul piano politico, cioè ha preso la struttura della sua lingua, della lingua inglese, delle lingue europee, eccetera, e ha preteso di farla diventare l'universale per tutte le lingue. Quando dice che esiste un principio del VH, una regola del VH, per cui tutte le interrogative in tutte le lingue avrebbero l'inversione che hanno in inglese. Cioè, non. Quando poi vai a studiare le cose vediche, allora uno può dire, l'obiezione che può fare è perché non conosciamo sufficientemente queste lingue, e in realtà sotto sotto anche loro hanno sempre predicato, perché questo è soltanto il loro modo di dirlo, ma in realtà si vede invece che molto spesso, ma adesso devo dire banalmente, ci sono esempi banali anche all'interno di una stessa lingua, e come qui abbiamo un esponente di una comunità linguistica di cui adesso voglio, come dire, parlare, nella lingua italiana l'uso dell'impersonale in toscano rispetto a tutto il resto della, come dire, penisola è secondo me uno degli esempi di questo tipo. In Lombardia nessuno direbbe: che cosa facciamo stasera? Andiamo a ballare. Dice: tu cosa hai deciso? Andiamo a ballare. In Toscana dicono, quasi tutti in Toscana non usano quasi mai la persona plurale, usano l'impersonale. Si va. È chiaro che vuol dire la stessa cosa, è la stessa azione che indica questo. Però il mondo, per usare i termini di Worf, il mondo di un toscano è lievemente diverso, lievissimamente, non in maniera incomunicabile, questo non pregiudica la comunicabilità, ci possiamo capire benissimo, come dire, lo stesso, ma la sua, diciamo, l'accentuazione, quella piccola accentuazione che mette un toscano, forzando un po', possiamo dire nella variante toscana dell'italiano si è mantenuto, più che nelle altre versioni dell'italiano, una sorta di senso originario della comunità, di qualche cosa che si fa tutti insieme, che non ha un soggetto preciso, non siamo noi che andiamo, è un gruppo, che poi rimane anche in altre parole italiane, ma quando rimane anche negli altri usi dell'italiano, che si dice in giro di bello? Allora, in quel caso, va bene, insomma, non sai a priori chi. Ma invece il toscano lo usa anche quando apparentemente si sa già chi è il soggetto che compirà l'azione, ma si usa sempre, come dire, l'impersonale. Ma la stessa cosa possiamo dire o possiamo pensare, senza, ripeto, ricorrere agli estremi, anche per lingue molto, molto vicine. Non c'è dubbio che l'uso di una parola, di una unica parola, per esempio la parola casa, per due concetti che in altre lingue, per esempio in inglese, sono diversi, implica anche lì una piccolissima, infinitesimale, colmabilissima, ma differenza di mondi. Una persona che distingue tra home e house, una persona che distingue tra tra l'aspetto relazionale, l'aspetto affettivo anche, funzionale per certi versi del luogo in cui sta e diciamo la descrizione fisica di questo luogo, la differenza tra home e house, andiamo avanti. Quando in altre lingue, per esempio il francese sicuramente, o in certi casi l'italiano, l'idea di andare a casa o di vedersi nella casa di uno non viene espressa con il riferimento al sostantivo casa, ma con una semplice apposizione a un pronome personale, chez moi, da me, dicono i francesi, per dire dove ci vediamo, anche noi diciamo da me. Un inglese non può dirlo da me, deve dire in my flat, where I live, cioè, dice sempre un luogo. Un francese o un italiano, e il francese in modo più diffuso ancora dell'italiano, perché il francese non dice quasi mai a casa mia, dice dove lo tieni questo? A casa, diciamo noi, perché dice chez moi, da me. Cioè il modo di dire chez moi, da me, è una ulteriore sottolineatura dell'aspetto relazionale, affettivo, in questo caso anche un po' possessivo, da un certo punto di vista, del luogo, no? In cui tu abiti. Allora, tutte queste cose, eppure nessuno potrebbe assolutamente, dal punto di vista della struttura della frase, però poi ci sono tutta una serie di piccoli particolari da cui, come dire, si deduce che, come sa benissimo chiunque abbia fatto anche poco il lavoro di traduttore, due lingue non sono mai totalmente sovrapponibili. Una traduzione è sempre un lavoro parzialmente di tradimento, perché tu non potrai mai rendere esattamente, non potrai dire esattamente le stesse cose che ha detto il testo finale, dirai le cose più vicine possibili a quelle che ha detto l'autore originale usando un'altra lingua, perché usare un'altra lingua significa per forza di cose non poter dire precisamente, esattamente le stesse cose, le stesse risonanze. Ogni parola reca con sé, chiamiamolo un campo semantico, un'aura o una area più materialisticamente di risonanza, un insieme di significati connessi che sono immediatamente disponibili, non bisogna neanche pensarci sopra, il parlante della lingua li sa, e che però sono particolari caratteristiche da lingua a lingua. Diciamo, gli esempi che ho fatto adesso sono degli esempi estremi o anche semplificati, ipersemplificati, però di una cosa di questo tipo. La presenza di due parole diverse quando in una lingua ce n'è un'altra, casa, maison, o home o house in tedesco, invece house e home in inglese, e così via, ma che tutte ci sembrerebbero confermarci, insomma, che quello che hanno scritto sia Sapir che in modo più diretto e incisivo qualche anno dopo il suo allievo Worf, hanno almeno una giustificazione, e cioè che le lingue, e allora per tornare a uno degli interrogativi che ci eravamo posti all'inizio della, diciamo, lezione, sarebbe veramente bizzarro a questo punto se, come dire, o sarebbe difficile sostenere l'ipotesi che il linguaggio sia un semplice strumento per tradurre un pensiero che già esiste per conto suo. Perché se il pensiero esiste per conto suo ed è uguale, si deve pensare che sia uguale nella mente di un italiano, di un inglese, di un indiano Hopi, di un iraniano o di un cinese, e poi però quando lo traduco, quando lo esprimo nella lingua assume delle colorazioni così, così poco o tanto differenti, come è possibile che fosse nato? Se il linguaggio fosse semplicemente qualcosa che io aggiungo a un pensiero che si è già formato per conto suo, dovrei concludere in qualche modo che anche in questo caso probabilmente non esiste un pensiero, come dire, unico, cioè un modo unico di pensare per tutte le composizioni del mondo, ma a questo punto avrebbe più senso, sarebbe più economico supporre che è proprio in base allo strumento che uso, quindi che, come dire, il linguaggio non è un semplice strumento di traduzione di un pensiero già fatto, ma è piuttosto un ambiente nel quale il pensiero si forma, nel quale il pensiero si è formato, e quindi senza escludere che ci siano una serie di caratteristiche ovviamente comuni ai pensieri e agli ambienti diversi nei quali si formano questi pensieri, senza escludere che ci sia un substrato, diciamo, di materialità comune dell'esperienza che si è fatta in tutta una serie di cose, senza escludere questo, ripeto, però, diciamo, l'ipotesi di una relatività linguistica, quindi, che poi semplicemente potremmo dire invece di relatività se non ci piace, di molteplicità, di pluralità, semplicemente è una pluralità, diciamo, di linguaggio e una pluralità di pensiero. Per chiudere rapidamente su quello che poi affronteremo nelle lezioni successive, vabbè, adesso faremo ancora una coda la prossima volta su questa ipotesi dell'estinzione, quindi non ho detto nulla oggi, va bene? Giusto che so che ci tieni e quindi non voglio privartene, certo. Ecco, ma quindi faremo anche, diciamo, questo, ma per ricollegarci comunque al tema generale del corso, non prendo posizione, non voglio dire le cose stanno così o non stanno così, ma sicuramente bisognerà interrogarci sul fatto. Allora, se diamo perlomeno per ipotesi di lavoro, come dire, che il pensiero, che, diciamo, il linguaggio porti con sé una proprietà, una, diciamo, caratteristica di differenza, di carattere variegato, di molteplicità, non solo dell'espressione, ma dello stesso pensiero, cioè dello stesso modo di organizzare i contenuti mentali, ed è ineliminabile, o sarebbe in questa ipotesi ineliminabile dal linguaggio una cosa di questo tipo. Faccio un esempio: anche nell'ipotesi, io credo assurda, che si affermasse mai una lingua artificiale universale, e sai che ce ne sono state dei tentativi, il più famoso ovviamente è l'esperanto, anche in quel caso, siccome noi non parleremmo l'esperanto come prima lingua, sarebbe una lingua acquisita, in qualche maniera noi ci porteremmo dietro il modo di pensare, il sistema di pensare connesso a una certa lingua, relativo a una certa lingua, anche quando parlassimo, esattamente come ognuno di noi esiste in qualche maniera una qualche lingua, c'è una sorta di esperanto o di sostituto dell'esperanto oggi, ce n'è due o tre, ce n'è più d'una, ci sono lingue come l'inglese, lo spagnolo e il cinese che in aree diverse funzionano più o meno da e vengono parlate da persone che non sono di madrelingua inglese, spagnola o cinese. E lo spagnolo poi è comunque suddiviso a sua volta in varie aree, per cui un argentino ormai non parla esattamente la stessa lingua che parla un iberico. Quindi anche in quel caso noi sappiamo bene quanto ci portiamo dietro noi italiani, che anche se parlassimo un inglese più perfetto, con la pronuncia migliore di questo mondo, eccetera, eccetera, ma se non siamo di madrelingua inglese, non parleremo mai l'inglese come lo parla un inglese, parleremo l'inglese come lo, ripeto, al di là della pronuncia, se anche questa pronuncia è perfetta, se anche la sintassi è formalmente a posto, ma noi saremo sempre degli italiani che parlano inglese, quindi delle persone che hanno che hanno incominciato a vedere il mondo con una certa lingua e lo traduciamo in qualche maniera nell'altra. Bene, quindi diciamo, se fosse vero, se fosse vera questa ipotesi, che, come dire, non esiste alcun reale universale del linguaggio, se non la sua estrema potenzialità, cioè il fatto che è una abilità diffusa a tutto il genere umano, che probabilmente ha delle radici biologiche, quindi ha una radice innata, come dice Chomsky, ma senza che questo significhi che è innata la grammatica, perché cioè, un conto è dire che è innata la facoltà di linguaggio, un conto è dire che è innato il sistema, diciamo, di regole, se c'è o non c'è. Bene. Gli stessi problemi, come li risolviamo o come li poniamo nel caso dell'immagine? Questo è il tema del corso. Ok, giustamente, chiaro. Allora, c'è un aspetto vernacolare anche nell'immagine, c'è, non c'è dubbio. C'è un aspetto vernacolare, vuol dire c'è una relazione con un certo sistema culturale. Il modo di trattare l'immagine delle culture australiane, diciamo native, è diverso da quello che hanno i cinesi, diverso da quello che abbiamo noi. Se noi possiamo dire grosso modo di aver tratto le immagini in modi comparabili o simili in tutta quanta l'Europa, con tante variazioni, ma si può dire che c'è una base comune, è molto difficile dire che c'è. Però si può dire sulla stessa base su cui noi lo diciamo per il linguaggio o no? Tutto quello che abbiamo detto sinora deriva in larga misura dal fatto che lo strumento di organizzazione di questi nostri pensieri, quindi le immagini mentali, sono già fortemente di natura linguistica, sono influenzate col linguaggio, quindi sono influenzate da un sistema discreto, così astratto, eccetera, eccetera, e che rappresenta le cose con un mezzo così diverso da quello con cui, non c'è sostanza, non c'è materialità comparabile tra la descrizione di un albero e l'albero stesso, la descrizione di una sedia e la descrizione di un vestito e un vestito, non ci sono chiesti. L'immagine invece porta dentro di sé questo rapporto di somiglianza, anche quando è astratta, anche quando è, cioè nasce come qualcosa di analogo, cioè come dire, il linguaggio di per sé è più vicino al digitale, l'immagine di per sé è più vicino all'analogico, all'analogo, a ciò che somiglia da un punto di vista della morfè, della forma, a qualche altra cosa. Allora, non è possibile che la forma sia più universale del linguaggio, quindi che al di là della stratificazione poi che il linguaggio gli ha dato, quindi che sia il linguaggio prevalentemente responsabile del fatto che le immagini fatte dagli aborigeni australiani sono diverse, hanno caratteristiche e sistemi semiotici diversi da quelli delle immagini della tradizione dell'Occidente, ma non si potrebbe supporre che invece l'immagine abbia di per sé delle qualità che, lasciate libere e depurate il più possibile dall'influenza linguistica, non siano davvero più universali di quanto non sia il linguaggio. Quindi, detto in altri termini, come lo impostiamo e come lo risolviamo il problema dell'universale nell'immagine? Non voglio che rispondiamo adesso, è ovvio che non risponderemo neanche alla fine del corso, però siamo d'accordo che questo è un problema analogo a quello che abbiamo affrontato sinora. Io, da come ho condotto il discorso, da dove siamo partiti, dall'inizio del corso sino ad ora, confesso che io lo sapevo all'inizio, insomma. Quindi ho cercato di portare mete, di portarci, e anche gli ospiti che ogni tanto vengono a questo corso, verso una particolare un particolare problema, senza dare soluzioni. Non ho dato una soluzione, non ho mica detto che le ipotesi di Worf sono sacrosante, cioè sono quelle che a me in questo momento paiono più, diciamo, probabili o più realistiche, però continuiamo a condividere. Però diciamo, mi pare che attualmente il problema degli universali nel linguaggio l'abbiamo più o meno impostato. Dovremmo cercare di fare altrettanto, e quindi sarà difficile che lo facciamo, bisognerà partire da un po' più lontano, oppure nel caso dovrò fare dei passi indietro partendo dall'immagine, e quello che faremo con l'aiuto di Benjamin e di Flusser, e ahimè credo anche di Nietzsche, perché l'ho scoperto e lo sto studiando adesso Nietzsche, quindi nelle ultimissime settimane ho scoperto che sono delle cose che forse ci possono interessare anche a noi, quindi io allora, cioè, mi dispiace, ma io ti faccio fare le ricerche che faccio io adesso, non ti sto dicendo le cose che già so, quindi più o meno se ce la facciamo, insomma, ricerchiamo insieme. Va bene, per oggi basta. No, sono arrivato alla conclusione di un discorso, non è che posso andare avanti troppo oltre. Invece venerdì facciamo